1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Amici, amici, amici, è venerdì. Amici di tutta Italia, di tutto il mondo, perché ci ha appena scritto per esempio da New York un ascoltatore poco fa a dire: adesso però vado un po' a dormire e ti sento domani in podcast. Evviva! Allora, cari ascoltatori, siamo qui. È venerdì e mi porto ancora i miei malanni al seguito. È la 135esima settimana decisiva per l'abolizione delle province che si va a chiudere. E vabbè, dai, la 136esima secondo me potrebbe essere quella buona. Quella buona, staremo a vedere. Allora parleremo un po' col garante degli scioperi, il garante Roberto Alesse, presidente della commissione di garanzia sugli scioperi. Oggi a Roma è una giornata, è venerdì e c'è una sigla sindacale che crea qualche problema. Tra l'altro oggi targhe alterne a Roma, cos'è che funzionano oggi? Non vanno le dico, che giorno è oggi? Oggi è pari, quindi oggi vanno le pari. Le dispari? No! Dai, andiamo a leggere i giornali. Venerdì 4 dicembre, i titoli, il Sole 24 Ore, Draghi allunga il quantitative easing ma delude i mercati, è il titolo di prima pagina. Così Repubblica: la BCE taglia i tassi, faremo di più, i mercati delusi. Draghi va avanti ma per le borse aiuti insufficienti, è anche il titolo della Stampa su questa vicenda. Mentre il terrorismo, la strage di San Bernardino in California, Corriere della Sera: strage, si indaga per terrorismo. Così anche il Messaggero: volevano la strage come a Parigi, killer di San Bernardino, marito e moglie di origini islamiche, tanto che Libero titola così: i terroristi erano islamici. Titolo invece del giornale: Renzi prepara una nuova tassa, ci risiamo, per aiutare le donne a smettere di lavorare prima, raddoppiata la Tobin Tax. Per l'Unità invece: incubo americano. Il Fatto Quotidiano: Alfano, la sezione del nuovo centrodestra in caserma tra feste in bucati e mozzarelle. Questo è il titolo di prima pagina. Vediamo però alcune delle notizie da cui voglio partire da alcune notizie del mondo del lavoro, dal mondo delle imprese, dal mondo dell'economia. Mi hanno incuriosito alcune storie. Una la racconta Dario Di Vico, che ieri aveva parlato di un centro IKEA che non si realizza in Lombardia. Oggi si concentra su un centro commerciale da 1,4 miliardi, un investimento fermo da 5 anni. È un progetto australiano a Segrate, alle porte di Milano, e Dario Di Vico racconta il freno della burocrazia. È dal 2010 che gli australiani da Westfield aspettano che abbia seguito l'accordo di programma firmato con le autorità italiane per realizzare a sud-est di Milano, tra Segrate e l'aeroporto di Linate, il più grande shopping center d'Europa. Investimento previsto 1,4 miliardi di euro, superficie interessata per aprire 300 negozi, 50 tra bar e ristoranti, 16 cinema. Superficie di 235.000 metri quadri, circa un quinto dell'area di Expo. La costruzione dell'edificio richiederà il lavoro di 27.000 persone e a regime lo shopping center conterà 17.000 addetti. Purtroppo, scrive Di Vico, quando non vogliamo decidere, noi italiani siamo maestri nell'arte del rimpallo tra enti locali e ministeri. E così è andata anche per questo progetto. Un operatore, quello di Westfield, un operatore specializzato che ha le carte in regola per progetti così ambiziosi, avendo realizzato strutture analoghe a Londra, San Francisco, New York, Los Angeles, nella Silicon Valley. In Italia ha come partner il gruppo bergamasco Percassi. L'accordo era stato raggiunto 6 anni fa con la regione Lombardia, la provincia e il comune di Segrate, ma per rendere accessibile lo shopping center è necessaria una piccola tangenziale di 6 chilometri dal costo di 235 milioni che dovrebbe servire per collegare lo shopping center da una parte con la Cassanese Bis, una strada, e dall'altra con l'autostrada Brebemi. E da qui nascono i problemi. Insomma, il freno della burocrazia, un centro commerciale da 1,4 miliardi, fermo da 5 anni l'investimento, così racconta Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Una storia simile, anche se una storia già chiusa, se si vuole, raccontata da Franco Bechis in prima pagina di Libero, perché si racconta la vicenda della British Gas, che doveva ricostruire e doveva costruire un rigassificatore a Brindisi, ma si ritirò, vi ricordate, anche perché la magistratura aveva bloccato tutto, aveva bloccato i cantieri, aveva disposto arresti, tra questi anche il sindaco. Era il novembre 2002 quando ci fu l'approvazione alla British Gas per costruire e gestire questo terminale di importazione nel porto di Brindisi, ma nel 2007 l'operazione giudiziaria basata su intercettazioni portò a molti arresti, 27 avvisi di garanzia, solo che, scrive Bechis, oggi tutto finisce in nulla, o meglio, dal punto di vista giudiziario, la conclusione è che l'ex amministratore delegato di British Gas Italia, Franco Fassio, assolto per non aver commesso il fatto, Gilberto Dialuce, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, assolto perché il fatto non sussiste, e alcune delle assoluzioni. Che succede? Che i PM, scrive Bechis, hanno bruciato 1 miliardo di euro e 1000 posti di lavoro, perché ciò avrebbe portato come impatto il rigassificatore, alla fine di un'inchiesta dalla quale sono tutti assolti. Ma British Gas nel frattempo ha detto: noi ce ne andiamo dall'Italia e non facciamo più questo progetto. Grazie ai PM l'Italia ha perso 1 miliardo e 1000 posti. Questo è il racconto della storia a pagina 14, inizia per la verità in prima pagina di Libero e poi continua a pagina 14. Ma a proposito di mercato del lavoro e delle imprese, questa invece è una buona notizia che c'è sui giornali e che riguarda la storia di un'azienda che è stata inaugurata ieri a Caivano, in provincia di Napoli. In realtà è un'azienda che è stata rilevata dagli operai che ci lavoravano. È la WBO Ital Cables di Caivano. È una storia molto bella che è raccontata sia dall'Unità con una pagina, Felicia Masocco a pagina 4, sia dal Manifesto, due pagine, le due pagine centrali del giornale, pagina 6 e 7. Che cosa hanno fatto questi lavoratori? Beh, dopo 252 occupazioni, dopo essere andati sui tetti, dopo aver protestato in tutti i modi perché questa multinazionale portoghese stava per chiudere, sono inventati un'altra idea e dire: ma perché non usiamo i soldi della liquidazione, 25.000 euro a testa, e li reinvestiamo, creiamo una cooperativa e rileviamo noi stessi la società? Non è il primo caso in Italia, succede, è già successo, ma succede anche a questa Ital Cables a Caivano, Napoli, e ieri è andato anche il ministro del lavoro Poletti a inaugurare, se volete, a salutare, a omaggiare la nascita di questa nuova società che ora ha come proprietari i lavoratori che temevano di perdere il posto di lavoro e poi hanno deciso di fare questa azione, hanno rilevato l'azienda. Tanto che il Buongiorno di Massimo Gramellini, prima pagina della Stampa, è dedicato proprio a loro, è dedicato a questa storia. Io me la cavo, scrive Gramellini. C'era una volta, era appena 2 anni fa, una multinazionale portoghese che, per le solite logiche finanziarie incomprensibili a noi umani, chiuse il suo stabilimento napolitano di cavi d'acciaio. Operai e ingegneri non capirono, si arrampicarono sui tetti, presidiarono i preziosi macchinari, per un po' si illusero che qualcuno venisse a salvarli, poi compresero che ciascuno si salva da solo, purché non sia solo, e loro per fortuna erano tanti, così decisero di investire i proventi della liquidazione, 25.000 euro a testa, nell'acquisto dell'azienda. A dispetto dei luoghi comuni sul fatalismo meridionale, rinunciarono ai soldi con cui avrebbero potuto campare decorosamente almeno qualche mese per comprarsi la possibilità di tornare a lavorare. Lo stabilimento venne rimesso all'onore del mondo con l'aiuto di tutti: chi ridava il bianco, chi potava gli alberi, chi aggiustava i rubinetti dei bagni, anche gli antichi clienti si rifecero sotto, e un po' per tenerezza, molto per convenienza, perché alla WBO Ital Cables di Caivano sono davvero bravi. E con l'approssimarsi del Natale, come ogni favola che si rispetti, arrivò il lieto fine. Ieri il primo carico di cavi d'acciaio diretto a Houston ha varcato i cancelli della fabbrica e negli occhi di quegli uomini rotti a tutte le intemperie è spuntata perfino qualche lacrima. li accompagni l'eco dei nostri applausi. Certe favole sono contagiose. Così Gramellini in prima pagina sulla Stampa, davvero mi sembra giusto celebrare, salutare la rinascita, se volete, di questa Ital Cables. Mentre eccoci qui all'articolo che mi fa più zare della giornata. L'articolo da Mani sul volante, se siete alla guida. Lodovica Bulian racconta sul giornale da Udine l'incresciosa, incredibile, l'assurda storia di un preside detenuto in carcere per il terremoto. Avete sentito bene. Già aveva negli occhi le immagini della distruzione e della morte di tre studenti rimasti intrappolati sotto le macerie del convitto nazionale all'Aquila. Ma quando la Cassazione il 23 ottobre scorso ha condannato in via definitiva a 4 anni di carcere, 5 di interdizione ai pubblici uffici, Livio Bearzi, beh, per lui si sono aperte le porte del carcere. 58 anni, friulano, dirigente scolastico all'Aquila quando ci fu il terremoto il 6 aprile del 2009, condannato in via definitiva per negligenza e condotte omissive, nonché totale inerzia a fronte di una situazione di evidente rischio per le condizioni in cui versava la palazzina. Insomma, per la legge è tutto chiaro. La responsabilità dello stato del vecchio immobile, il convitto, era in capo al preside. E così la condanna e il carcere. Ora, racconta il giornale, ci sono le mobilitazioni per chiederne la grazia, e chiedere la grazia a questo dirigente scolastico in carcere per il terremoto dell'Aquila. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Mela che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. E allora, cari ascoltatori, alle 7:36 minuti siete avvisati. Saluto e ringrazio, mando un abbraccio a Giarre, da dove mi scrive Sara, che dice hai una bella voce ma sei bruttino e spennacchiato. Sara, detta la Naomi Campbell di Giarre, grazie, grazie, grazie. Allora, parliamo della strage di San Bernardino. Si indaga per terrorismo, certo, queste due persone sono morte, sono state uccise poi dalla polizia, ma questa coppia killer intanto aveva un arsenale in casa e non è proprio come dire l'arsenale che può avere uno in America, perché in America c'è libertà di acquisto di armi, è un arsenale vero e proprio con 5.000 proiettili, con diverse armi. E ovviamente, come racconta il Corriere della Sera, l'FBI ora scava nel passato di Syed Farouk e Tashfin Malik, questi coniugi che hanno fatto la strage a San Bernardino, 14 morti e 21 feriti. Gli agenti cercano insomma indizi della militanza nell'islamismo radicale, setacciando i messaggi scambiati sui social network, su internet. C'è chi spera così di trovare delle motivazioni del massacro, visto che non le possono più dire loro due. Comunque sono stati trovati a casa dell'attentatore 2 fucili tipo R15, 2 pistole semiautomatiche, 15 bombe rudimentali, 2500 proiettili per fucili, 2200 per pistole, corpetti tattici, caricatori e oggetti per fabbricare ordigni. Vabbè, questi sono anche oggetti che servono un po' per fabbricare qualsiasi cosa, però capite che non è un normale una normale dotazione di armi. Tra l'altro Guido Limpio, a pagina 3 del Corriere della Sera, racconta dei viaggi nel Golfo e dei contatti con gli estremisti di questo Syed Farouk, 27 anni. Nelle stragi, scrive Olimpio, c'è sempre il prima e il dopo. Ora l'FBI afferma che Syed Farouk era in contatto con figure del terrorismo internazionale all'estero, rapporti accompagnati da una progressiva radicalizzazione. Ma fino a ieri questo ispettore sanitario era il classico vicino taciturno e riservato, un musulmano tranquillo si definiva, interessato alla religione ma con una famiglia moderna. aveva uno stipendio da $70,000, per 5 anni ha verificato le condizioni igieniche di ristoranti e locali, era un ispettore sanitario. Poi forse qualche viaggio, intanto ha conosciuto la moglie via chat, poi è andato in Arabia Saudita a conoscerla, ha fatto qualche viaggio in Pakistan, insomma l'FBI cerca di scavare in quello che è il suo passato. Anche Federico Rampini su Repubblica racconta a pagina 6 gli amici jihadisti di Farouk e Malik, quella coppia felice da sogno americano, forse hanno avuto un periodo della vita poi in cui si sono radicalizzati. Ed eccolo qui, Libero insiste sulla sua sui suoi modi e sui suoi toni che già avevano causato molte polemiche. A pagina 3 l'editoriale di Maurizio Belpietro, il titolo è questo: e anche questa volta i bastardi sono islamici, il titolo di Libero. Mentre si scava su questo, ragazzi, quando Vladimir Putin dice la Turchia non pensi di cavarsela con qualche sanzione su 4 pomodori, dovrà pagare a lungo quello che ha fatto, cioè l'abbattimento del jet russo, io un pochino mi inquieto. Non so se a voi rende tranquilli e sereni sapere che c'è un Vladimir Putin che ce l'ha con te. A me non tanto, se fossi in Erdogan. Comunque, le bombe di Londra sul petrolio dell'ISIS e Putin avverte Ankara, ve la faremo pagare. Racconta Enrico Franceschini per Repubblica da pagina 10. Per adesso nel mirino della Royal Air Force, cioè l'aeronautica britannica, c'è il petrolio dell'ISIS, ma sono iniziati a notte fonda, poche ore dopo il voto del Parlamento britannico che ha autorizzato i bombardamenti in Siria, i raid decollati dalla base di Cipro. I Tornado e i Typhoons si sono alzati in cielo per colpire le installazioni petrolifere del sedicente califfato. Per il ministro della difesa Michael Fallon ha avuto successo questa prima azione, e certo però la Gran Bretagna, che tra l'altro ha visto una nuova star, una nuova stella nascente nel partito, Hilary Benn, ministro degli esteri ombra del partito laburista, che ha paragonato l'ISIS al fascismo in questo discorso che il Foglio ripropone integralmente, dicendo è nata una stella politica, in un discorso definito elettrizzante dalla stampa, dalla maggior parte della stampa. Ha detto Hilary Benn: noi laburisti e noi britannici non ci siamo mai spostati sull'altro lato della strada per evitare una minaccia, non abbiamo avuto paura dei fascisti, li abbiamo combattuti arruolandoci nella Brigata Internazionale contro il dittatore Franco, li abbiamo combattuti affrontando Hitler e Mussolini, e oggi nei fanatici dell'ISIS abbiamo visto e abbiamo di fronte un nuovo fascismo, un fascismo che disprezza noi, i nostri valori, la nostra democrazia, e quel che sappiamo dei fascisti è che bisogna sconfiggerli. Questo, insomma, è il tono del discorso di Hilary Benn. È nata una nuova stella, giura la stampa britannica e non solo, anche la stampa internazionale, e quindi viene celebrato il suo discorso che dà il via di fatto anche ai bombardamenti della Gran Bretagna in Siria. Mentre qui in Italia, io incredibilmente nei giornali italiani, la politica italiana si occupa delle primarie. Le primarie alle amministrative, scusate, il tono mi è scemato di colpo, ma le primarie delle amministrative a Milano, le grandi città, paginate, per carità. Le vedremo tra poco, ma è il momento di intanto verificare che Mauro Meazza non sia stato ricoverato in una clinica psichiatrica dopo l'intervento. L'intervento di... No, c'è Mauro Meazza. Napoli. C'è Mauro Meazza, scusa Mauro. Sì, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Mi sembrava che il mio sistema di risposta automatica ieri avesse diffidato da codesti comportamenti. Hai, come si dice in un gergo giovanile, hai spaccato ieri. Spaccato. Sì, sono no? arrivati almeno 100 messaggi di gente con applausi virtuali. Ah, no, pensavo in viperita o di creditori anche che si erano fatti vivi. No, preoccupati naturalmente di non avermi sentito e quindi chiedevano se... Va bene, ci sono qui, dopo aver attivato questo risposta automatica, che mi è stata peraltro utilissima, ti volevo segnalare alcune cose tra le molte che trovi oggi sul Sole 24 Ore, caro Alessandro. Se state fermini con quei vostri fermissimi. Soprattutto Peter, che è molto, molto veloce con quei tasti, con quei bottoncini lì che manda inserti audio non graditi. Allora, ti voglio dire, ieri c'è stata, l'hai ricordato, questa decisione della BCE. Certo. Oh, allora, su Sole 24 Ore, gli effetti sui mercati, ma soprattutto la buona bussola per famiglie, imprese e banche. Cioè, che succede allora dopo questa decisione? Cosa succede ai nostri mutui? Cosa succede per i prestiti alle imprese? Trovi appunto le risposte a queste domande sulla bussola che oggi riportiamo nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Mm-hmm. Oh, quei soldini che hai rimpatriato, cui dai 2 eurini sei passato offerte da 50 euro, con anche una certa megalomania, devo dire. Ecco, spero che tu li abbia rimpatriati dal Liechtenstein. Perché ti parlo del Liechtenstein? Perché? Nelle pagine di norme e tributi che tu leggerai come ogni giorno, quindi quotidianamente e religiosamente, scoprirai che Liechtenstein ha firmato questo accordo, cioè questo accordo del Parlamento Europeo, il via libera del Parlamento Europeo, per una trasparenza dei dati bancari. Quindi dal 2018 anche il tuo conto in Liechtenstein, soprattutto il tuo, caro Alessandro, ovvio, sarà visibile per tutte le amministrazioni fiscali, compresa la nostra. Questo ti farà molto piacere e ti consentirà di recuperare denaro, anche perché ci servirebbero. Allora, devo fare un'addizione a questo del mattino, sono in difficoltà. Dunque, da una parte ci sono 601 miliardi e mezzo. Sì. Ce li hai? Chiedi anche a Peter. Però li metto 601,5 miliardi. Benissimo. Ecco, sono i crediti poco esigibili di Equitalia. Ok. Cioè, i crediti che abbiamo, i debiti che abbiamo verso il fisco e che però appunto per vengono lasciati lì. Probabilmente non riusciranno a prenderli. Non riusciranno, quindi se li metti tu ci fai un, ci 601 fai una miliardi. Adesso facciamo. E lo scopri sempre sul Sole 24 Ore di oggi, guarda. Nelle pagine norme e tributi, quando le leggerai religiosamente. Oh, e poi ci sarebbe un problemuccio con le province. Hai letto già Gianni Trovati, esatto. Allora sai che lì, vabbè, siamo a 1 miliardo e rotti, sono quindi poca cosa poca per roba, te. Sì. Poca cosa, però c'è il problema che avrebbero sforato il patto di stabilità. Adesso si vedrà se nella legge di stabilità, non c'entra, anche portando lo stesso nome col patto, si trova un sistema. Quindi comunque, esistono, hai... comunque le province esistono, la conferma città, c'è. C'è questo problemuccio, sì, dello sforamento, 1,2 miliardi, mi pare di ricordare, quindi è una cosa trascurabile per te, visto il rimpatrio dall'Istituto, di cui ci parliamo in norme tributi. Parliamo anche di patent box, ma non ti voglio interrogare su questo per timore perché di trovarti ho letto ieri, preparato. Perché ho letto ieri il Sole. Ah, ecco, vorrei anche vedere. Caro il mio spennacchiato, e poi torniamo. Ma chi è che ti ha detto spennacchiato? Sara da Giarre. La Naomi Campbell di Giarre. Mi vorrei congratulare, però, con Sara. Spennacchiato farò mio, utilizzerò subito questo vocabolo. Sì. Caro il mio spennacchiato, ti segnalo anche così, un po' alla rinfusa, le pagine di Moda 24, come ogni venerdì, e poi il ritorno sulla reintegra, cioè sulla possibilità o meno di reintegrare il dipendente licenziato in caso di licenziamento illegittimo, sai la questione articolo 18. Tutto questo e molto molto molto altro sul Sole 24 Ore di oggi. E adesso, caro Stemacchiato, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, giornalista, rain. Allora, cari ascoltatori, le primarie, appunto, gran dibattito in Italia sulle primarie per Milano, grandi pagine sui giornali. Intanto racconta Goffredo De Marchis su Repubblica che c'è un Renzi molto arrabbiato con Pisapia. Anzi, addirittura Renzi avrebbe messo nel mirino Pisapia. Questo perché Francesca Balzani, la candidata di Pisapia, se n'è uscita il primo giorno con delle dichiarazioni nei confronti di Sala, ex amministratore di Expo. Beh, un po' urticanti, perché ha detto la sfida attira molti manager, ma non siamo a una partita per un consiglio di amministrazione. Questo ha detto Francesca Balzani. Per governare e amministrare una città, per avere a che fare con le persone, non bisogna essere membri di un CDA. Questa frase non è piaciuta a Renzi, perché Renzi scrive Repubblica e dice: ecco, partiamo malissimo, visto che abbiamo detto che chi perderà dovrà riconoscere il vincente. Renzi, insomma, giura Repubblica, ha messo Pisapia nel mirino. Per la verità, Francesca Balzani sul Corriere della Sera, intervistata a mezza pagina, pagina 12, ribadisce questo concetto. Amministrare non è semplicemente organizzare, ma dare volta ai bisogni, ai sogni, alle paure, alla speranza, alla fiducia di una città. Non è che si trasferisce un buon manager in politica e tutto viene facile. Basti pensare a Corrado Passera. Milano non è un consiglio di amministrazione, è una città profondamente anticonformista, orgogliosa della sua diversità. Insomma, Francesca Balzani, anche sul Corriere, esplicita nuovamente questo concetto che pare abbia fatto arrabbiare molto Renzi. E poi, peraltro, dice: non so se mi candido, ci sto pensando, una decisione molto importante che riguarda il futuro di una città che amo. Dall'altra parte c'è l'incertezza del centrodestra, come racconta Tommaso Labate sempre sul Corriere della Sera. Peraltro, Berlusconi ha dovuto fare una capatina al San Raffaele di Milano, perché raccontano tutti i giornali nulla di allarmante, ma ieri si è dovuto far cambiare la batteria del pacemaker, così racconta Repubblica. Recuperato al San Raffaele Berlusconi, il cambio del pacemaker, per Libero Silvio si fa il tagliando al cuore per correre di più alle comunali. C'è, tra l'altro, riguardo la politica, una polemica del giornale, pagina 4, su un emendamento del presidente del PD, Matteo Orfini, emendamento alla legge di stabilità. Orfini vorrebbe modificare la legge Lupi, quella sulle occupazioni delle case. Vorrebbe, insomma, in alcuni casi eliminare la norma che prevede, per chi occupa la casa, che gli vengano staccate le utenze della luce e del gas. E ora il PD strizza l'occhio a chi occupa le abitazioni. Questo è il titolo di pagina 4 del giornale. Anna Maria Greco parla di questa proposta di Matteo Orfini, appunto, con Lupi che dice: ma insomma, è come dire che il settimo comandamento non rubare produce i ladri e l'obbligo di pagare le tasse produce gli evasori fiscali. Matteo Orfini dice che in alcuni casi casi, diciamo, disperati, non bisogna arrivare a staccare la luce e il gas. Questo almeno racconta il giornale. Mentre grande successo per i De Luca, il figlio del governatore della Campania Roberto De Luca, figlio di Vincenzo De Luca, ha ottenuto la consulenza politica del presidente della provincia di Salerno. Ah, vedi che le province ci sono sempre. Giuseppe Canfora, che ha nominato consulente politico, racconta il Fatto Quotidiano a pagina 7, consulente politico o consigliere politico, come volete, il figlio del governatore. Vincenzo Iurillo racconta tutto sul Fatto Quotidiano a pagina 7. Salerno, il figlio di De Luca, diventa consigliere politico in provincia a Salerno. Vi segnalo, siamo in veloce chiusura, le polemiche anche per l'inchino al boss nella processione di Santa Barbara a Paternò, in provincia di Catania. A un certo punto, sulle note della musica del Padrino, ci si inchina alla casa del boss, l'ultima sfida dei clan con il questore che blocca la processione. Ricordate che ci sono state polemiche anche in passato e tutti i giornali ne parlano. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina. Lo so che mi odieranno molte persone che guardano tutti i giorni questo programma, questa telenovela, Tempesta d'amore, giunta alla puntata numero 2266 su Rete 4, vista da milioni di italiani. La stampa va dentro Tempesta d'amore, sul set a Monaco di Baviera, in un hotel dove la telenovela più vista in Europa, ambientata in un hotel alpino, viene prodotta. Eccola qui, dentro Tempesta d'amore. Ma chi se ne frega?